parte di Diego Manetti, un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese, con questo ciclo di conversazioni che cerca di riportare, ecco, in primo piano argomenti che forse vengono spesso tralasciati con la scusa che vi siano cose più importanti, laddove per importanza si intende spesso la concretezza, direi forse l'urgenza a volte di certe questioni che non sono prioritarie, ma appunto semplicemente urgenti. Quante volte presi dalla quotidianità ci dimentichiamo le grandi domande che dovrebbero sorreggere la nostra vita, quelle grandi domande che non sono parte di un bagaglio filosofico che dovrebbe essere così peculiarità di alcuni e di pochi, come se una ristretta cerchia di intellettuali potesse avere il tempo di interrogarsi sulle grandi domande della vita che i più non hanno neanche modo o tempo di considerare impegnati con la vita vera, la vita concreta. E abbiamo detto invece più volte, cari amici, che per andare al fondo della vita, per viverla in pienezza, in tutta la sua concretezza, a volte anche in tutte le sue sfaccettature più difficili a capirsi, più contraddittorie, più apparentemente insignificanti, bisogna proprio partire dalle grandi domande, come se a fronte di un cammino impervio da doversi intraprendere ci si interrogasse anzitutto sulla meta. E anche di recente la regina della pace a Medjugorje, nel messaggio del 25 settembre 2021, ci ha ricordato che la nostra meta è il cielo. E proprio di questo vorrei parlare con voi questa sera, cioè parlare di queste realtà a volte così difficili da circoscrivere con la povertà del linguaggio umano. Difficoltà che si riscontra quanto più si vanno a toccare quegli argomenti che non si riescono tanto a rappresentare con l'immaginazione. Quanto è facile immaginarsi l'inferno, ne abbiamo parlato a lungo, facendo riferimenti che forse potevano farci ricordare quando alla scuola superiore studiavamo l'inferno dantesco. Una vividezza di immagini che rapisce subito la fantasia di qualunque studente che così facilmente si fa un'idea di cosa sia l'inferno. E se andiamo a vedere anche la pedagogia mariana, vediamo con quanta attenzione la Madonna sia preoccupata, ad esempio a Fatima, di rappresentare proprio la realtà dell'inferno nella prima parte del segreto rivelato ai pastorelli. Mostrare immagini vive di una realtà che ciascuno di noi non fa fatica a immaginare. Spesso ci viene da pensare alla nostra quotidianità per trovare conferma alle parole che Maria piuttosto che Visca hanno riferito da parte della Madonna. La regina della pace ha detto loro: in fondo all'inferno Dio non manda nessuno, ci va chi ci vuole andare. Per intendere la grande responsabilità che l'uomo ha di fronte alla dannazione eterna. E poi ha aggiunto: in realtà chi sceglie l'inferno lo ha già cominciato a vivere in questa vita, poi semplicemente soltanto si continua a vivere. Quando si sente dire a volte dalla gente comune, anche dai non credenti, questa vita è un inferno, facendo riferimento ai problemi, alle difficoltà, alle sofferenze, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte, beh, uno allora immagina più facilmente cos'è l'inferno. Quando si parla del paradiso non è così semplice, perché sembra, proprio per la sua ineffabilità, per la sua immensità, per la sua perfezione, per la sua bellezza, qualcosa di inimmaginabile. E forse a volte anche la vita ci viene in aiuto per capire questo. Se parliamo del dolore, subito ci viene in mente una grande sofferenza che possiamo aver vissuto, che nella sua concretezza ci ha toccato, ci ha fatto piangere. Se pensiamo alla gioia, alla perfezione della gioia, forse facciamo più fatica, perché l'esperienza umana è che la gioia è qualcosa di sfuggente. È come se la realtà della vita si prestasse più a farci capire quanto è misteriosa la realtà del paradiso, che non invece a darcene degli indizi. Allora, se dovessi chiedere a me stesso: ma che cos'è il paradiso? Beh, anzitutto cercherei di rispondere con l'aiuto dell'insegnamento della Chiesa. Potrei dire che il paradiso è ciò per cui l'uomo è fatto. Il paradiso, che è una realtà così difficile a definirsi, forse più sfuggente rispetto all'inferno, al purgatorio o agli altri novissimi, la morte, il giudizio, ebbene è proprio la realtà che però più riguarda l'uomo e ciò per cui l'uomo è anzitutto fatto. Lo dice anche il Catechismo in apertura al primo articolo. Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha ha liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Cioè Dio è perfetto, non aveva bisogno dell'uomo. Lo ha creato liberamente per una sovrabbondanza di amore e lo ha creato, a differenza di qualunque altro essere vivente e animale, per partecipare della sua vita beata. Lo fa per mezzo del Figlio suo, che nella pienezza dei tempi ha mandato come Redentore e Salvatore. In lui e mediante lui, Dio chiama gli uomini a diventare nello Spirito Santo suoi figli adottivi e perciò eredi della sua vita beata. Ecco che ancora una volta si insiste su questa altissima vocazione dell'uomo, diventare figli adottivi di Dio. Non è banale questa sottolineatura, perché spesso incontrano persone che forse con l'ansia di difendere la nobiltà dell'animale perdono di vista la dignità dell'uomo. Di recente mi è capitato di accompagnare delle ragazze in un maneggio per una prima esperienza a cavallo e una delle persone presenti che si premurava di dirmi è fondamentale il rispetto dell'animale perché solo così si impara il rispetto della persona, come dire che l'uno e l'altro vanno sullo stesso piano. Ma eh no, un animale è una semplice creatura di Dio, non è un problema del linguaggio o dell'intelligenza che l'animale possiede in grado diverso, è un problema di libertà, di volontà, di intelligenza e di vocazione. Perché l'uomo è l'unico animale dotato di un'anima spirituale immortale chiamato a partecipare alla vita beata di Dio. Cioè siamo chiamati a diventare figli adottivi, quindi a entrare nella casa del Padre, quindi siamo fatti per il paradiso. Ora, se è vero che a tutti è offerta la possibilità del paradiso e della vita beata, è vero però che non tutti gli uomini vanno in paradiso dopo la loro morte. Quindi, quando dico ciò per cui l'uomo è fatto, non è come dire che un corpo grave è fatto per cadere e tutti i corpi gravi e pesanti, liberi di cadere, cadono. No, qui non c'è una necessità assoluta. È una vocazione, è una chiamata, è un'opportunità, un dono che non tutti accolgono. E infatti ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, che al numero 1023 dice: coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e sono perfettamente purificati, vivono per sempre con Cristo. Sono per sempre simili a Dio, perché lo vedono come egli è, faccia a faccia. E a chi si riferisce il Catechismo quando parla di quelli che sono morti nella grazia e nell'amicizia di Dio? Evidentemente non sta parlando di chi ancora deve emendare alcune scorie, alcune macchie di peccato dalla. Bentrovati cari amici, scusate per l'interruzione, per un problema tecnico e riprendiamo. Mi piace sempre pensare che quando si stanno per dire delle cose importanti non sia strano che ci siano anche degli intralci dal piano di sotto per impedire di condividere cose importanti come quelle sul paradiso. Quello che volevo proprio condividere era l'idea che il paradiso è ciò per cui l'uomo è fatto e rappresenta la vocazione a cui ogni uomo è chiamato a rispondere liberamente. E ricordavo come non tutti gli uomini accolgono questo grandissimo dono, che anzitutto viene riservato, lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1023, a coloro che muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio e perfettamente purificati. E per capire bene a chi fa riferimento il Catechismo, parlando di quanti muoiono nella grazia e nell'amicizia di Dio, conviene andare ancora a vedere un altro testo del Magistero. Questa volta un testo che risale al 1336, la Costituzione Benedictus Deus di Papa Benedetto XII, che lo stesso Catechismo non manca di citare. Lo leggo per intero, ancora dal numero 1023 del Catechismo: le anime di tutti i santi morti prima della passione di Cristo e quelle di tutti i fedeli morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo, nelle quali al momento della morte non c'era o non ci sarà nulla da purificare, oppure se ci sarà qualcosa da purificare, quando dopo la morte saranno purificate, anche prima della resurrezione dei corpi, sono state, sono e saranno in cielo, associate al regno dei cieli e al paradiso celeste con Cristo, insieme con i santi angeli, e dopo la passione e la morte del nostro Signore Gesù Cristo, esse hanno visto e vedono l'essenza divina, in una visione intuitiva e anche faccia a faccia, senza mediazione di alcuna creatura. Ecco, vedete come questa definizione coglie l'essenza del paradiso, in questo vedere faccia a faccia l'essenza divina. E questo riguarda sia le anime che sono già perfettamente purificate, quindi degne di entrare nella gloria del paradiso immediatamente, sia invece quelle anime che ancora devono purificarsi e dopo potranno entrare nella gloria del paradiso. E per definire meglio allora il paradiso potremmo dire in fondo che è il fine dell'uomo. E ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1024, parla di una vita perfetta, una comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, con gli angeli e tutti i beati, che si chiama il cielo. E il cielo è il fine dell'uomo, la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva. Ecco, questo è importante come modo di definire il paradiso, perché se dico che è il fine di ogni uomo, non sto parlando del paradiso come la meta dei cristiani, ma come di una vocazione alla quale sono chiamati tutti gli uomini. L'intera famiglia dell'umanità è chiamata a questa meta, a partecipare della vita di Dio nell'eternità beata. E non si tratta semplicemente di proseguire nell'eternità una vita simile a quella terrena. E certo, a volte usiamo le immagini terrene per descrivere realtà ultraterrene, parlare del banchetto del paradiso oppure di felicità facendo riferimento a esperienze umane terrene, ma nulla della vita umana e terrena può paragonarsi alla gioia eterna. Tanto che il Catechismo ha usato questa espressione, felicità suprema e definitiva. La nostra vita terrena non permette mai di vivere una simile condizione, né una felicità suprema, cioè massima, né definitiva, cioè compiuta. Quindi questo articolo, apparentemente semplice, quasi banale, quando uno dice il paradiso è la beatitudine eterna, sembra dire una cosa semplice, in realtà sta svelando una grande realtà. Il fatto che il paradiso è fatto per l'uomo in quanto tale, e la felicità del paradiso, che viene dal vivere nella comunione profonda con la Santissima Trinità, è l'unica condizione che rende veramente felice l'uomo. Tanto che se uno potesse così chiedersi direttamente, no? Ma allora possiamo dire che in questa terra non è possibile essere felici? Bisognerebbe onestamente rispondere no, su questa terra non è possibile essere pienamente felici. Questo evidentemente va contro la situazione attuale, odierna. Anche Aristotele, 2500 anni fa, diceva che in fondo tutti gli uomini tendono alla felicità, poi però diverse sono le idee su cosa voglia dire essere felici. L'umanità contemporanea sicuramente non propende anzitutto per ritenere la massima felicità dell'uomo il paradiso, se pensate che proprio nell'umanità contemporanea sempre più si rifiuta Dio. Ciò per cui l'uomo è fatto diventa oggetto del massimo rifiuto. Anche la Madonna, nei tempi più recenti, ha detto a Medjugorje che in questa società, in questo mondo, ormai la croce e la fede sono rifiutate, si rifiuta Cristo in maniera radicale. In questo, contesto in cui l'uomo ha tutto, perché nonostante la crisi, di fatto il benessere, il consumismo, il materialismo dominano in Occidente. Pur avendo tutto, ci scopriamo tristi e insoddisfatti. Si è cercato di espungere dall'orizzonte della vita umana la prospettiva dell'aldilà, pensando che l'uomo sia un semplice animale che nasce dalla terra e alla terra ritorna, eppure ci siamo trovati a essere parte di una umanità che, come definirebbe il compianto Cardinal Biffi, è un'umanità sazia e disperata. Sazia perché ha la pancia piena, cioè la vita colma di cose, piacere, divertimento, beni terreni, idoli, ma è disperata perché? Perché questa umanità che ha tutto, che si sente padrona del mondo, in realtà è povera. Povera del bene vero, che è il significato della vita. povera perché manca la pace, manca la serenità autentica. Senza Dio non si può essere felici. Perché? Perché siamo fatti per Dio, siamo fatti per Lui e senza di Lui il nostro cuore, come diceva Agostino, è inquieto, non trova pace. E questo è, come si può dire, una realtà che prima ancora di essere parte di una assunzione teologica è una verità antropologica, cioè l'uomo è fatto per questo infinito. Quando si vanno ad analizzare le civiltà umane più antiche, si scopre che da sempre l'uomo ha praticato il culto dei morti, il fatto di avere un'attenzione per il divino, la ricerca della dimensione misterica anche nella natura, il desiderio di una dimensione che potesse andare oltre. E perché? Perché l'uomo ha questa sete di infinito che è inestinguibile. Si può dire che anche quelli che cercano Dio, che vorrebbero conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita, per goderlo poi nell'aldilà, come insegnava una volta al Catechismo di San Pio X, non arrivano a giungere, non arrivano a godere di questa piena comunione in questa terra. Perché? Perché la loro anima è segnata dalle conseguenze del peccato originale. Quindi da una parte c'è una parte dell'umanità che rifiuta Cristo, che non vuole questa comunione. Dall'altra c'è un'umanità che cerca Dio ma che questa comunione non riesce a ottenere, perché l'uomo, segnato dal peccato originale, è prigioniero di quella che San Giovanni definisce la triplice concupiscenza, la concupiscenza della carne, cioè tutte le tentazioni legate alla gola, alla sensualità, la concupiscenza degli occhi, la bramosia di possesso delle cose materiali, gli idoli appunto, e poi la concupiscenza o la superbia della mente, l'orgoglio. Quello terreno è dunque un pellegrinaggio davvero faticoso, durante il quale l'anima anela al suo creatore, ma si trova in un certo stato di separazione, perlomeno a causa dei peccati veniali, che macchiano l'esistenza di ogni uomo, anche dell'uomo più giusto. Noi leggiamo nella Sacra Scrittura profondissimi insegnamenti riguardo alla fragilità della creatura umana in quanto tale. Nel libro dei Proverbi, capitolo 24, versetto 16, leggiamo: il giusto pecca 7 volte al giorno. E ancora la prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetto 8, dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Allora, per il fatto stesso che tutti sono peccatori, almeno per quanto riguarda le colpe veniali, ogni uomo, anche se cerca Dio, in questa vita, in questo pellegrinaggio terreno, non può raggiungere quella piena comunione che è propria solo del paradiso. Questo evidentemente vale per tutti gli uomini, fuorché per la Beata Vergine Maria, che essendo stata preservata dal peccato originale in quanto Immacolata Concezione, come definito dal dogma di Pio IX del 1854, evidentemente non ha, come si può dire, avuto nessuna privazione nel vivere un rapporto di comunione profondissima col suo Signore e, come si può dire, godere di un anticipo del paradiso, poi completato con la sua assunzione al cielo. Rispetto alla felicità, allora potremmo dire che se il paradiso è la felicità piena e definitiva dell'uomo, in questo cammino terreno che è la vita, l'uomo può semplicemente incamminarsi verso il paradiso, non ancora godendo però di quella pienezza che sarà propria soltanto della vita beata. Allora torniamo a capire bene cosa si intende con felicità piena e definitiva, parlando del paradiso come vita di comunione con Dio. Lo dice ancora il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 1025: vivere in cielo è essere con Cristo. Gli eletti vivono in Lui, ma conservando, anzi trovando, la vera identità e il loro proprio nome. Questo è un punto che mi colpisce particolarmente, perché nella seconda parte di questo breve articolo si dice che non soltanto in paradiso si conserva la propria identità, non finiamo in un nulla indistinto, contro ogni tentazione reincarnazionista o filobuddista, non è che c'è il tutto indistinto e l'io che è fonte di tutti i dolori dell'uomo a causa dei suoi desideri, si perde finalmente. No, no, il mio io, la mia consistenza, la mia memoria, la mia storia, la mia identità sono beni preziosissimi. Pensate alle persone quando soffrono di amnesia, patiscono un trauma terribile, quando uno non sa chi è. Immaginate coloro che non sanno chi sono. Chi sono i propri genitori, chi non sa da dove viene, no? Uno ha bisogno di sapere chi è e di restare questo io, che rimane qualcosa di stabile, definito nel variare delle diverse vicende della vita. Io sono io per la mia identità, anche se non sono più un bambino, anche se non sono più un adolescente, anche se magari cambio città, cambio lavoro, cambio abitudini e quant'altro. Questo io rimane. Anzi, il catechismo dice non solo rimane, si conserva, ma addirittura si trova la vera identità. Cosa vuol dire questo? Che non sarò più soltanto io, ma sarò pienamente figlio di Dio. Sarò chi sono, figlio di Dio, e dove devo essere nella piena comunione con la Santissima Trinità. Ecco, quindi questo è molto importante. Il paradiso non ci toglie nulla di noi stessi, anzi ci restituisce noi stessi in pienezza, perché chiamati a essere figli di Dio, adottivi, ricordatevi che Dio ci crea a sua immagine e somiglianza, quell'ad indica una vocazione, un cammino, e Cristo è immagine perfetta e realizzata del Padre. In paradiso saremo anche noi questa immagine realizzata, nella perfezione che ovviamente compete alle creature umane, redente, riscattate dall'amore di Dio. Ora, per capire cosa vuol dire essere con Cristo, io voglio proporvi una figura che mi è molto cara, che molti di voi conoscono, perché spesso cito e riporto nelle mie catechesi, ed è la figura del buon ladrone. Il buon ladrone compare nel Vangelo secondo Luca, al capitolo 23, dai versetti 39 a 43, che vi ripropongo. Uno dei malfattori, appesi alla croce, lo insultava. Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava. Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla di male. E aggiunse Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose, in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, la tradizione indica il ladrone come buono, ma è evidente che se questo ladrone è finito in croce, poi tanto buono non doveva essere. Allora adesso provo a chiedervi di fare con me uno sforzo di fantasia. Proviamo a immaginare quale vita avesse avuto questo buon ladrone prima di finire in croce. Proviamo a immaginare quale percorso di pellegrinaggio terreno avesse compiuto il buon ladrone, la tradizione gli assegna il nome di Bisma, prima di trovarsi in croce al fianco di Gesù. Possiamo immaginare che magari fossero entrambi di Nazareth, anche se sappiamo che per via del censimento Gesù è nato a Betlemme. Potrebbero magari aver condotto vite parallele Gesù e il buon ladrone da piccolo. Facciamo questo gioco di fantasia, poi vedete dove voglio portarvi. Possiamo immaginare che mentre Gesù a 7 o 8 anni si faceva i primi amici nel villaggio, quell'altro iniziava a provare antipatia per Gesù. Perché? Perché Gesù era un bambino prodigio, diremmo oggi, stupiva tutti i suoi amichetti, era capace di fare uccellini di fango che poi animava con un semplice batter di mani e li faceva volare via. E questi sono episodi che si ritrovano anche nei Vangeli apocrifi sull'infanzia di Gesù. Sono testi non ispirati, magari edificanti, che contengono questi simili riferimenti. E lui, il futuro buon ladrone, mica sapeva farvi i trucchi così. Quindi, tra l'invidia, una punta di astio o di rancore, cercava in tutti i modi di evitare Gesù. Proprio mentre, immaginate la scena, sua madre diceva a Maria, la Madonna, come vorrei avere un figlio bello, buono e bravo come il tuo. È chiaro che le mamme riconoscono la bontà nei bambini. Crescendo, il futuro buon ladrone si sentiva forse sempre più desideroso di separare la sua strada da quella di Gesù, perché gli appariva anche un personaggio un po' strano, di quando in quando puntava gli occhi al cielo, diceva Padre mio, non si sapeva bene a chi parlasse, oppure si metteva a dare lezioni addirittura ai dottori del Tempio, dopo essere scappato dai suoi genitori per 3 giorni quando erano a Gerusalemme, che il buon ladrone pensava l'avesse fatto lui, si sarebbe beccato una punizione di quelle memorabili. Insomma, più vedeva Gesù starsene buono e tranquillo, obbediente ai suoi genitori, più cresceva nel buon ladrone la voglia di essere dispettoso e ribelle. Così, mentre il figlio del carpentiere Giuseppe passava gli anni dell'adolescenza e poi della giovinezza in casa dei suoi, lavorando in umiltà e nascondimento, quell'altro si preoccupava all'opposto di fare carriera, possiamo dire, no? Dalle marachelle, i primi furtarelli, dagli sguardi intimoriti e ammirati dei ragazzi, alla prima banda di gente di malaffare come lui, che lo temeva per la sua forza e la sua cattiveria. Eppure possiamo immaginare che, per quanto non avesse più incrociato la strada di Gesù il Nazareno, quel volto gli era rimasto nel cuore. Gli era rimasto nel cuore e lo turbava, e si rendeva conto che, per quanto male facesse, per quanto rubasse, usasse violenza, non era felice. E quei pensieri, col passare del tempo, erano diventati un tarlo costante, quasi un'ossessione, quando, intorno ai 30 anni, ecco Gesù ricompare sulla scena pubblica. Sappiamo che proprio intorno ai 30 anni i Vangeli dicono che Gesù comincia la sua vita pubblica. C'è il battesimo, l'incontro col Battista, le nozze di Cana, il primo dei segni che, dirà Giovanni nel capitolo 2 del suo Vangelo, danno inizio alla vita pubblica di Gesù. Gesù si presenta quasi come un profeta, alla testa di un gruppetto di pescatori, di sempliciotti del popolo, annuncia il regno di Dio e invita alla conversione. E intanto il nostro buon ladrone segue tutt'altro stile, usa le armi, usa la violenza, usa la delinquenza, finché un giorno, forse distratto da questi pensieri che ormai erano diventate delle ossessioni, anche il nostro ladrone si fa beccare, lo processano e lo condannano a morte. Non paia strano, perché alla fine i giudici del tempo erano i romani, che erano spietati nell'imporre la Pax Romana, una pace imposta con la forza, e mantenere la giustizia era uno dei capisaldi fondamentali. Viene condannato a morte per crocifissione, ed è strano perché, quando lo arrestano, quasi quasi prova una sensazione di sollievo, come se fosse la fine di una vita che in fondo neanche lui avrebbe voluto vivere, che in fondo non gli dava quella gioia, quella pace, quell'amore che andava cercando. Condotto sul luogo dell'esecuzione, il Venerdì Santo, si accorge che insieme a lui verranno giustiziati un altro malfattore, è Gesù. E qui immaginate la sorpresa di Dio: ma come, il Nazareno? Anzitutto si ricorda com'era, uomo di poche parole, uomo di pace, molto pacato nei modi, gentile. Ma cosa può avere così di grave combinato uno come lui per essere condannato a morte, si chiede. E poi pensa: ma guarda la vita, ho fatto di tutto per evitarlo, l'ho rifuggito fin piccolo e adesso mi trovo qui, sul punto di essere ucciso, crocifisso come lui, proprio al suo fianco. E qui il buon ladrone si sente a disagio, si sente a disagio e non vorrebbe incrociare quello sguardo, non vorrebbe fissare quel volto. Fastidio, ma forse anche timore. Eppure, una volta in croce, è come se sentisse che Gesù lo sta guardando. E benché lui quasi si ostini, pur in quella tragica circostanza, a tenere il capo girato dall'altra parte, non lo vuole vedere. A un certo punto, però, non ne può più. Si volta e i suoi occhi incontrano gli occhi di Gesù. E quello sguardo è uno sguardo, dobbiamo immaginarlo, per amici, carico d'amore. Un amore che forse neanche la madre aveva mai rivelato nei confronti di quel figlio, forse soffocato dalle preoccupazioni, dalla stanchezza, forse semplicemente preda di tutti i limiti dell'amore umano. Ma Gesù è il volto della misericordia del Padre. Gesù è l'amore fatto carne. Gesù è colui che poco prima, mentre lo stavano crocifiggendo, diceva: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E allora che cosa può capitare al buon ladrone mentre incontra quello sguardo? Che si sente amato come mai prima, ed evidentemente capisce che un amore così per uno come lui non è una cosa umana. Che un amore così, che ti fa sentire perdonato all'istante, solo Dio te lo può riservare. E allora fa quello che forse neppure lui avrebbe immaginato: prega, prega Gesù e gli dice: ricordati di me. Dobbiamo immaginare la drammaticità di questo momento, tale per cui le parole devono essere state davvero una supplica accorata, come dire: ti prego, ricordati di me. Questa è forse l'ultima preghiera del buon ladrone, forse l'unica della sua vita. E cosa dice Gesù di fronte a questa preghiera? Oggi sarai con me in paradiso. Cioè, nella beatitudine, nella gioia eterna, Laddove questa non consiste tanto in un luogo, ma nell'essere in comunione con Gesù. Per cui quella risposta, oggi sarai con me in paradiso, dovremmo rileggerla come se fosse scritto, oggi sarai con me, cioè in paradiso. Perché è come se Gesù dicesse al buon ladrone, guarda che l'essenza del paradiso è stare con me. E uno potrebbe dire, ma questa lettura te la sei inventata tu. No, c'è un particolare che la corrobora grandemente. Dalla croce il buon ladrone riconosce che colui che a fianco lui è il Signore. Dice, Signore, ricordati di me, Kyrios, è Dio. Poteva chiedere qualunque cosa. Poteva chiedere con fede quello che in maniera provocatoria, quasi blasfema, chiedevano i passanti, i sommi sacerdoti sotto la croce di Gesù. Se sei il figlio di Dio, di che ti faccia scendere, ma queste sono le tentazioni di Satana nel deserto, le conosciamo. Anche Satana aveva detto: se sei il figlio di Dio, fatti mettere sul pinnacolo del tempio, buttati giù, ti salverà. Tentare Dio è un peccato gravissimo. E qui il buon ladrone non sta tentando Dio, lo sta supplicando, lo sta pregando. E sapendo che Dio, che cosa poteva chiedergli? Ma scusate, se è in croce, poteva dirgli: fammi scendere dalla croce, fammi abbandonare questa croce, liberamene. Fai di me il primo cristiano autentico, fai di me il primo papa, porterò il Vangelo fino ai confini del mondo. Non ha chiesto quello. Perché? Perché il buon ladrone non chiede di scendere dalla croce, ma dice a Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno, si preoccupa del dopo e non di adesso. Perché adesso, vicino a lui, che è in croce, c'è Gesù. Non vuole lasciare quella croce perché vicino a quella croce c'è Gesù e a lui interessa stare con Gesù, perché uno sguardo così, capace di amore nei suoi confronti, non l'ha mai trovato. Perché una capacità di perdono, di misericordia, di amore totale, come quella che vede negli occhi di quell'uomo che sta per essere crocifisso, innocente e ingiusto per tutti i peccatori del mondo, non l'ha mai vista una realtà del genere. E capisce che il suo paradiso, la sua beatitudine, la sua gioia è stare lì, anche se in croce, vicino a Gesù. Ecco perché gli dice semplicemente, poi quando sarai nel tuo regno ricordati di me. E Gesù dice, oggi sarai con me, cioè in paradiso, oggi tu sarai ancora con me, perché stare con me è il tuo paradiso. Se noi adottassimo questo sguardo, non malediremmo più le croci del nostro cammino quotidiano, piccole o grandi che siano. Non penseremmo più che sono delle obiezioni alla nostra felicità, che sono uno scandalo. Ah, senza questa prova sì che allora sarei felice, Signore, di lodarti. Eh no, guarda che la via che porta alla resurrezione è la croce. Guarda che il cammino per arrivare alla resurrezione della domenica di Pasqua, il venerdì santo. Guarda che il buon ladrone qui ci edifica. È un atto di fede. Tante volte si dice il più bell'atto di fede è Tommaso che dice Signore mio e Dio mio. Mettendo il dito nelle piaghe di Cristo, risorto, riconoscendo che è il risorto, che è il Cristo, che è Dio, vero, ma è un altrettanto grande e bellissimo atto di fede quello del buon ladrone, che dice ricordati di me, perché tu sei Dio, io amo stare con te adesso, io desidero stare anche sulla croce, anche su questa croce che mi sono meritato, perché tu sei vicino a me. Se pensassimo così delle nostre croci, non le disprezzeremmo più. La bellezza di riconoscere come Cristo nella sua presenza cambia anche la realtà drammatica della croce, ci viene proprio dal considerare nella figura del buon ladrone l'archetipo del cristiano che in croce riconosce come la presenza di Gesù rende paradisiaca anche quella croce. Tanto che Santa Gemma descriveva proprio la croce come via per il paradiso, per crucem ad lucem, attraverso la croce alla luce della felicità eterna, della visione beatifica di Dio che è vera luce, chi segue me cammina nella luce e non nelle tenebre del peccato, dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, e noi possiamo ricordare che in questa presenza di Gesù accanto alla croce è l'inizio del paradiso. Ecco perché al buon ladrone Gesù dice proprio guarda che devi stare con me, devi stare con me perché è la mia presenza che ti fa tastare, ti fa sperimentare, ti fa anticipare il paradiso. E il buon ladrone non chiede di scendere dalla croce. Dovremmo chiedere la grazia di saper stare anche noi in croce, di saper stare anche noi nella prova, perché sapendo che l'unica cosa che conta è proprio l'amore, l'amore di Dio. Ecco, io mi scuso se vi ho condotto con un po' di fantasia e qualche difficoltà tecnica, forse eccessiva, attraverso le vicende immaginarie del buon ladrone, andando ben al di là di quello che il racconto evangelico ci dice, ma ci tenevo a far emergere anzitutto due cose. Intanto l'essenzialità del paradiso, stare con Gesù, stare con l'amato del nostro cuore, basta. E chi, non cogliendo appieno il significato della espressione visione beatifica di Dio o di comunione con Cristo, obiettasse ma non ci si annoia in paradiso, non sapete quante volte i miei studenti del liceo dove faccio filosofia mi rispondono così, ma ci si annoia in paradiso, ma cosa si fa? Ma io dico scusate, ma perché tu quando sei di fronte alla tua persona più desiderata, alla tua ragazza, alla persona che più ami, contemplandovi uno nell'altro, no? Occhi negli occhi, ti annoi? Ecco, con Dio è la stessa cosa, cioè quando sei di fronte all'amato, come puoi pensare di annoiarti? Seconda cosa, lo sguardo che Gesù potrebbe aver avuto con il buon ladrone, uno sguardo, un oggetto carico di misericordia, che testimonia come sempre che è Dio che prende l'iniziativa, che va incontro al peccatore, come il buon pastore che cerca la pecorella smarrita. Questo sguardo è lo sguardo che ciascuno di noi ha ricevuto in dono chissà quante volte nella vita. Allorché anche noi, cari amici, siamo stati prossimi a perderci, perché il peccato ha toccato anche noi. Lungo una via di peccato ci siamo sentiti guardati, cercati, amati, anche in quel frangente, da Cristo, che ha un amore infinito per ognuno. E allora ecco che, e concludo, se dovessimo definire l'essenza del paradiso come lo stare con Gesù, fare memoria dell'esperienza del buon ladrone, credo che sarebbe, ecco, decisivo per riuscire a rendere questa definizione del paradiso un'esperienza desiderabile per noi. Allora sì, che pur con tutte le prove, le difficoltà e i dolori della vita, potremmo cominciare a vivere il paradiso qui e ora. Perché? Perché se il paradiso è stare con Gesù, nella comunione con Gesù, che posso sperimentare già in questa vita, incomincio proprio ad assaggiare, a pregustare quella visione beatifica e quella gioia che in paradiso saranno poi pieni. Ecco, allora mi fermerei qui, cari amici, vi lascio con una piccola pausa musicale, poi ci ritroviamo tra poco per le vostre domande, che come sempre vi chiedo siano brevi e in tema con quanto presentato. A tra poco. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, parli pure. Buonasera. Senta, io condivido quello che lei ha detto, molto bello, cioè il fatto di stare con Gesù è il nostro paradiso. Quindi nell'aldilà godremo appunto della sua presenza. Però io ho perso una puntata nella quale aveva detto, se non sbaglio, perché avevo sentito solo un pezzo di questa sua trasmissione, nel quale mi sembra che parlasse del rapporto nostro con gli altri, cioè con le altre persone nell'aldilà. Allora, pronto? Sì. Pronto? Allora, sì, siccome io sono vedova, ho una certa età e avevo un rapporto con mio marito molto bello, per cui parlavamo molto, cioè noi avevamo fatto un pezzetto di paradiso fra di noi, eccetera. Quindi era un rapporto esclusivo, diciamo così. Allora io volevo sapere, l'aldilà sicuramente non è che passerò tutto il tempo con mio marito e magari questa esperienza con mio marito, anche spirituale, eccetera, mi è servita per avere migliori rapporti con le altre persone. Attualmente ho tanti amici, eccetera, quindi diciamo che ha allargato forse anche i miei orizzonti dal punto di vista dei rapporti umani in generale. Allora vorrei sapere, nell'aldilà, secondo lei, come, insomma, come si svolgerà questa vita? Avremo dei rapporti multipli con le persone, come, non so, come si vede adesso in internet, che uno si può collegare con tante persone contemporaneamente, allo stesso tempo, stare vicini con Gesù, insomma, avere, insomma, è difficile in fondo immaginarsi il No, paradiso, no? chiaro. Chiaro, la domanda è chiara ed è molto, molto pertinente e ti ringrazio di averla posta. Riprendo una cosa detta le scorse volte trattando del purgatorio e anticipo un tema che poi approfondiremo ancora parlando del paradiso, il rapporto con i nostri cari. Se nel paradiso si conserva, anzi si ritrova in pienezza la propria identità, è evidente che questo vale per me e vale per tutti gli altri. Quindi ci si riconosce in pienezza. Quando Gesù dice in paradiso non si prende né moglie né marito, allude al fatto che non ci si sposa, non che uno non riconosce o non ricorda chi era la moglie e chi era il marito. Come però, diceva la nostra ascoltatrice, molto opportunamente, un buon rapporto col marito spalanca a rapporti con altri. Una buona famiglia è fatta per un'apertura alle relazioni con altre famiglie, la parrocchia, la società. Il bello è che questo è all'ennesima potenza in paradiso. Quindi certo che si ricorda, si riconosce il rapporto esclusivo che si è avuto con il marito durante il cammino terreno, ma in paradiso tutti i rapporti vengono esaltati al massimo livello possibile per creature pur umane, ma ormai introdotte nella visione beatifica di Dio che ci comunica la sua capacità di amare. Allora, usiamo un paragone terreno, come una madre ama tutti i suoi figli, allo stesso modo, ma in modi diversi, così l'anima beata in paradiso amerà tutti i fratelli allo stesso modo, ma in modi diversi, in base all'identità, al rapporto, alle personalità. La nostra storia ci appartiene, ci definisce, per quanto ovviamente esaltata, nella perfezione del paradiso. Questo deve essere uno stimolo importante. Potremmo dire che è un corollario. È una causa seconda di quel desiderio di paradiso che dovrebbe essere anzitutto mosso e animato dal desiderio di incontrare in pienezza Cristo, che è l'amato della nostra anima. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Diego Manetti. Complimenti per la sua trasmissione. Sono Francesco da Verona e volevo Benvenuto. toccare l'ultimo punto, la croce. È una cosa grandiosa, infinitamente grandiosa, voluta proprio e pensata dall'Onnipotente. Con la se si offre queste sofferenze, non è una cosa sterile. È una cosa che ti aiuta, che ti solleva e ti dà anche la possibilità di emendarti già su questa terra o di essere di aiuto, come è stato Cristo, di aiuto al buon ladrone. E purtroppo troppi tentano di scansarla e non si rendono conto che la croce ti seguirà dappertutto e ovunque, se no alcuni arrivano a bestemmiarla. È un valore immenso che purtroppo viene sprecato. È un valore dell'infinita bontà del Signore, la croce. Io la vorrei un suo parere su questa mia considerazione, l'ascolto per radio. Grazie. Grazie Francesco per questa bella testimonianza, per l'entusiasmo con cui ci ricordi questo grande dono. Anche Santa Gemma Galgani, che citavo poco prima, amava dire: devo amare non la mia croce, ma la croce di Gesù. Voleva dire la croce di Gesù come strumento di redenzione per la propria anima, ma anche la croce di Gesù, cioè la croce che Gesù sceglie per me. Le croci che sceglie Gesù sono quelle più giuste, quelle più adatte. E non sono mai eccessive perché, come dice la scrittura, il Signore permette la tentazione e dà la forza per sopportarla. La croce è uno strumento di salvezza per noi stessi perché possiamo purificare la nostra anima. Quante sofferenze, quante malattie, quante direi proprio quante a volte quanti intralci nella vita noi vorremmo poter evitare e non ci accorgiamo che se vengono offerti con pazienza ci permettono di scontare parte di quel purgatorio che dovremmo forse affrontare dopo la morte. Vi dicevo una delle volte scorse sul purgatorio che una grazia che dovremmo poter chiedere, ben indirizzati e consigliati dal nostro padre spirituale, è quella di fare il purgatorio in terra, come tanti grandi santi hanno chiesto e scelto di fare. Di recente è mancato un sacerdote 87enne nella mia diocesi e devo dire che mi ha molto, molto colpito ripensare a questo sacerdote con oltre 60 anni di ministero sacerdotale al servizio della sua comunità, con un cuore grandissimo, una generosità veramente impareggiabile, e gli ultimi giorni passati in ospedale per un male improvviso che ha impedito che potesse essere cosciente, che potesse rispondere. E sono quei giorni che tante volte abbiamo forse visto vivere anche nei nostri cari prima di una morte che sarebbe comunque sopraggiunta, giorni che ci hanno fatto dire: ma cosa serve questo tempo, questo dilazionare una morte che è tanto ineluttabile? Se sapessimo, Dio Padre, che cosa opera nelle anime in quei giorni, ci rimangeremmo tutte queste recriminazioni. Perché proprio in quei momenti in cui si è sulla croce, si è sull'altare, nel momento del sacrificio più grande, io credo che proprio quanto più un'anima non riesce a rispondere a coloro che gli sono accanto, parenti, medici, amici e quant'altri, tanto più invece risponde a Dio che magari chiede un sacrificio. Dammi ancora qualche giorno, dammi ancora un po' della tua sofferenza, offrimela e io purifico la tua anima fino alla perfezione, ti permetterò di entrare subito nella gloria, ti permetterò di riscattare quelle anime che ti sono tanto care dal purgatorio, ti permetterò di ottenere la conversione di quei peccatori per cui tanto hai offerto già durante la tua vita. Ecco, credo che questo sia un mistero salvifico bellissimo che veramente capovolge la prospettiva entro la quale giudichiamo le nostre sofferenze lungo il cammino terreno della vita. Se cogliessimo il valore della croce, la croce di Cristo per noi e le croci nostre che il Signore permette, credo che cominceremmo proprio anche nella sofferenza, nella malattia, nella prova, nell'angoscia, nella solitudine, a sperimentare la bellezza del paradiso come stare con Gesù. Ci accorgeremmo che Gesù è sempre con noi. Mi viene in mente un episodio relativo al monaco Silvano di Monte Athos, questo monaco che poi godrà di fama di grandissima santità da un certo punto della sua vita in poi, ma che era entrato in monastero dopo una vita abbastanza rocambolesca, in una rissa, giovane, aveva ucciso una persona colpendola con un pugno alla testa, quindi in maniera non intenzionale, ma pentitosi, confessatosi, aveva preso poi la via religiosa, la via del monachesimo, e a un certo punto il demonio torna a tentarlo, gli rimette davanti questa colpa terribile e precipita in un tormento che dice come essere agli inferi. E mentre dice a Gesù: ma perché? Perché non mi tiri fuori da questa situazione? Sente Gesù che gli risponde: sei agli inferi, taci. Solo non disperare del mio amore. Ecco, se anche sei nella prova e nella malattia, non hai una via d'uscita, in situazioni che sembrano umanamente, che sono umanamente irreparabili, irrecuperabili, immodificabili, non disperare. Perché quello che cambia tutto è permettere a Gesù di starti vicino, di esserti accanto. Credo che avessimo questa prospettiva, coglieremmo davvero la bellezza e la grandezza dell'avere proprio Gesù accanto a noi come inizio di questo paradiso. Pronto? Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Giovanni da Verona e cerco di fare in fretta per non rubare spazio ad altri. E solo una sottolineatura, intanto grazie per il dono che Dio le ha dato, e Grazie a tratto Dio. proprio da un racconto di Santa Teresa di Gesù Bambino. Era solita scrivere delle pagine proprio anche teatrali, e dove parla proprio, guarda caso, di Disma il buon ladrone. E dove la mamma di Disma si confida con Maria dopo una realtà che è accaduta alle due donne e chiede appunto, dice a Maria, come posso, perché si preoccupava proprio per il figlio, perché seguiva le orme del padre. Leggo solo le ultime righe proprio per capire la risposta di Maria alla misericordia di Dio. Allora dice: ma la Vergine Santa dice, senza dubbio coloro che tu ami offenderanno Dio che li ha colmati di benefici, ma tu confida nella misericordia infinita del buon Dio. Essa è abbastanza grande da cancellare i più grandi crimini quando trova un cuore di madre che si abbandona interamente alla sua misericordia. La storia continua e si conclude sul Calvario, inchiodato sulla croce, accanto a Gesù ritroviamo Disma, il buon ladrone. È proprio lì, sulla croce, accanto a Gesù crocifisso, che Dio ha dato appuntamento a Disma. La preghiera della mamma ha tenuto appena aperta la porta della misericordia. Ci sono anime che la misericordia non si stanca di aspettare. Ecco, un piccolo commento suo e la ringrazio. Buona serata. Grazie caro Giovanni da Verona per questo intervento, una citazione che apprendo proprio grazie al tuo contributo, quindi te ne sono doppiamente grato anche a beneficio dei nostri ascoltatori e che conferma quanto ho cercato di far emergere proprio presentando con anche un po' di immaginazione la figura del buon ladrone. L'idea che la misericordia di Dio è più grande dei nostri peccati, l'idea che poter vivere l'attesa del paradiso non confidando nella propria bravura, ma nella generosità di Dio. Questo è liberante. Cioè, come faccio a smettere di avere paura della mia fragilità umana, della mia realtà di peccatore? Come faccio a togliere le maschere? Come faccio ad accettare la mia imperfezione che quotidianamente emerge solo se confido nella grandezza dell'amore di Dio? Pensiamo alla figura di Pietro. Pietro, che nel momento della sua confessione riconosce che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, e due minuti dopo è capace di dire a Gesù: non sia mai che tu debba andare in croce, affrontare la passione. E Gesù gli dice: vieni dietro a me, perché tu sei come Satana, tu ragioni secondo gli uomini. Allora, com'è possibile, no? Questi, Pietro è l'uomo, insomma, degli slanci, dell'irruenza, no? L'uomo col cuore in mano, che è anche forse ingenuo. Gesù è stato il primo Papa della Chiesa Cattolica. Allora potremmo dire: ma se alla Chiesa universale, alla Chiesa di Cristo, viene dato come Papa un personaggio simile, nella sua fragilità, capace di rinnegare il Cristo tre volte, dopo aver detto: io con te andrò fino alla morte. Ma cosa ci dice questo? Che Gesù ha voluto mostrarci la grandezza di Pietro. Pietro è grande non perché non pecca, Pietro ha peccato, ma è grande perché capisce che l'amore di Dio è più grande del suo peccato. È quello che Giuda sceglie di non fare. Giuda, che rimane deluso nella prospettiva puramente umana da quella che era la vicenda di Gesù, non accetta di poter essere perdonato e quindi si impicca in conseguenza di un puro pentimento umano che è disperante, distruttivo, e perde la possibilità di invece di redimersi. Il buon ladrone questa possibilità l'accoglie fino all'ultimo. Allora penso che c'è spazio per tutti, che si può arrivare fino all'ultimo momento della vita e dire: c'è ancora speranza. Con questo però voglio anche dire: se davvero il paradiso è la pienezza di quella felicità a cui aneliamo, guai a noi dilazionare di un solo giorno la decisione della vita. Signore, voglio cambiare. Signore, io voglio cercare te. Signore, io voglio il paradiso. Guardate che anche in questo momento di grandi incertezze, di pericolo, la pandemia tornerà, non tornerà, la nostra positività, la nostra visione della vita è stata minata dalle grandi sofferenze di quest'anno e mezzo di pandemia. E cosa possiamo fare? Andiamo a vedere cosa ci dice la Madonna Medjugorje. Ritornate a Dio, anelate al cielo, vivete la preghiera, offrite il digiuno. Bisogna tornare all'essenziale. Che sia questa, ecco, cari amici, la prospettiva dalla quale guardare alla nostra croce, alla croce di Cristo, e soprattutto alla quale guardare la nostra vita. Se la nostra vita è un cammino verso il paradiso, non c'è croce, non c'è prova, non c'è sofferenza che possa essere di scandalo o un'obiezione. Anzi, diventano quel trampolino verso il cielo che rende davvero più facile poter gustare la presenza di Dio in questo quotidiano, nell'attesa finalmente di goderlo nel cielo, cioè nel paradiso che tanto aspettiamo. Benissimo, cari amici, terminato il tempo a nostra disposizione, dobbiamo salutarci e vi ringrazio tutti per l'ascolto, per la partecipazione. Vi assicuro la preghiera e vi chiedo di pregare per la Chiesa tutta, in modo particolare per il Santo Padre, per tutte le persone malate della grande famiglia di Radio Maria, soprattutto per quelle più tribolate dal maligno. Una santa notte a tutti.